in questa frequenza, in HF. Sì, infatti magari roba che uno sente sul fondo, sente ronzii, suoni strani e non sa che magari roba, potrebbe essere anche roba più importante e non udibile in normale fonia. È solo che lì, vanno a sapere, poi adesso costa sede dell'Europa, poi vedrai che la tripla 5 si alzerà, peccato però, vabbè, non che io sia un assiduo frequentatore, anzi, direi proprio che è estremamente rara la cosa che saluti qualche italiano, ma non so cosa vogliano alloccare, ma chissà quanto durerà la 27, mi sono sempre chiesto quanto durerà ancora un anno, 5 anni, 10 anni, 20 anni, perché quando mancano gli utenti arriveranno al punto di dire, beh, riassegniamo la banda, magari torna utile a servizi più importanti. Oh, può darsi, mai dire mai. No, quei servizi che io ho sentito, a prescindere da dove provengano, erano tipici servizi militari, perché stiamo pensando che per vedere queste cose ti occorrono radio che vedono, cioè utilizzi anche gli occhi oltre che essere il segnale, sarà ben poco, tanto è vero che è notato su quasi tutta la radio, gli smitter oramai sono, non dico spariti, ma quasi. Per esempio su quelle che ho io nel veicolare c'è solo il coso tipo telefono, no? Le tacchette. al limite, se vuoi puoi attivare la funzione fuori portata che ti dice se la radio la puoi ricevere o no, se è presente in circuito o no, per queste cose. Comunque questi che ti dicevo io in 26 erano dei segnali a salto di frequenza, praticamente lo stesso segnale lo vedevi su gruppi che ne so di 10 canali velocissimo, e l'unica cosa che tu potevi sentire stando fermo e aspettando nel suo canale la stazione era tac, e poi spariva, poi tac su un'altra frequenza e poi sempre lo stesso tac sull'altra, e quindi in quel tac così ad alta velocità c'era sicuramente un messaggio o qualcosa del genere, capito? Ah, sì, queste funzioni di radio fuori portata le stanno implementando anche sui tipo Midland, sui PMR veri e propri, magari terra a terra, però le stanno, non so come funzioni, sarà la radio ogni tanto manda, mi sta uscendo un ping a vedere se la macchina risponde, no? Come i computer. Sì, qualche cosa che per forza deve essere contraccambiato dalla radio per far capire che è importata. Dovrei approfondire anche quella cosa lì, sono curioso. Mi sta anche mancando la voce, un po', mi diventa afona, mi viene la voce così, tipo il padrino. Che brutta era. Adesso me la ricorda, quella la dobbiamo fare fuori. Ha mancato di rispetto. Una cosa del genere. Sì, allora non è altro, cioè hai detto bene, siccome sono digitali, è un vero e proprio ping, cioè quello praticamente manda un segnale e quello che riceve lo deve ritrasmettere, tutto lì, se non lo fa significa che si fuori portata, capito? Ed è ogni tot, puoi programmare anche il tempo di richiesta e tutto quanto. Poi c'è anche l'interrogazione manuale, cioè, praticamente se voglio sapere se la radio mi sta ascoltando premo un pulsante e mando la richiesta, la radio la riceve, mi riconosce ovviamente perché anche lì ci sono password e cose di questo genere, e mi risponde, mi dice sì, sono operativa e ti sto ricevendo. Tutto lì, non è una grande, insomma è utile, ma c'è. Sì, è una cosa utile sicuramente, poi sicuramente è utile anche per servizi importanti, PMR, vabbè, come al piano c'è un uso professionale. No, mi ha ricordato quel film della Buonanima che se n'è andato ieri, singolo impulso sonar. Ti ricordi? Ho cacciato Predosso, mamma mia, quante volte l'ho guardato. E più lo guardo più mi piace. Sì, me lo ricordo, sto guardando un film, cioè un telefilm su due che è iniziato adesso. Ah no, ho attaccato la luce. Cosa strana. Vabbè, ma adesso ce lo guardiamo, tanto è tardi già. Sì, oramai sono sistemi che stanno sempre più, si stanno implementando, ovviamente c'è sempre la differenza tra apparecchi professionali e apparecchi, diciamo così, fatti alla buona, da. Quindi il prezzo la fa sempre a padrone. Ok, Marco, qua l'apparecchio sta dicendo 21,55, vediamo, no, sono, sì, le 21,55 è anche giusto, oramai mettono tutti l'orologio su questi apparecchi, tendono a limitare lo smitter, però l'orologio te lo metto, insieme anche volendo al GPS. Come annunciato, mi sa che è l'ora di andarsi a riposare. Sì, stasera c'era anche un film discreto, che naturalmente ho già visto tante volte, sempre roba di italo, mafiosi italo-americani, com'era il titolo? Quei brevi ragazzi, di Scorsese mi pare, con Ray Liotta, con De Niro anche, un bel film, 5 stelle lo dava il giornale. Però anche quello lo conosco a memoria, quindi inutile guardarlo. È iniziato alle 9 anche. Ok, Gianfra, buona serata, buon tutto e ci sentiamo alle prossime. Ok, buon proseguimento. Ciao ciao. Ok Marco, ti volevo dire a proposito, ora che me l'hai ricordato, di roba mafiosa, che ieri ho fatto, tu figurati, le 2 del mattino, 2 e mezza del mattino, perché mi sono sbaffato tutta la serie di Suburra che è uscita proprio il 30 e io praticamente me l'ho tutta vista, tutta in un colpo, ne sono uscito proprio domani mattina, non mi stavo neanche in piedi quasi. Ma roba tipo sempre Camorra, roba del genere, roba napoletana e dintorni. Ecco, quella roba lì italiana la seguo poco, lo sai. E quando seguo roba poliziesca, sempre roba estera. Queste italiane, non lo so, troppo vicine a noi, capito? No, non è roba esotica. Quindi Suburra cosa trattava? Roba di Camorra? No, più che mai, cioè praticamente la storia di Roma capitale, intrallazzi, eccetera, con tutti gli eventi, chiamiamoli mafiosi se vuoi, ma più che altro sono fortemente di criminalità organizzata, quindi ci sono i tizi che dovrebbero rappresentare Casa Monica, insomma è una storia un po' complessa, ci sono i preti e i cardinali ultracorrotti, per carità, insomma quelli con cui nella realtà poi alla fine sta combattendo anche Papa Francesco, quindi è molto reale la cosa, omicidi, perversioni di tutti i tipi e generi, guarda è da vedere, è una cosa omicidiale. Sì, ecco qua, ho trovato la pagina, politici, criminali, persone comuni, come vuol dire fare i malavitosi della città di Roma, ecco, sullo sfondo dell'assegnazione degli appalti per la costruzione del porto turistico di Roma nel quartiere di Ostia, ecco. Poi soliti nomignoli, samurai, insomma un po' tutta la cionfra, dai. Spadino, bei nomi, è tipico della malavita, questi nomignoli che si danno. Sì, queste italiane non riesco a seguirle, non mi stuzzicano. Io l'unica cosa di italiano che avevo guardato anni fa era che era un film, quindi trama breve, Gomorra. Però dopo di quello non ne ho voluto più sapere niente, perché può hanno fatto, mi pare, con la serie o roba del genere. Alla fine diventa una telenovela vera e propria. Comunque sono fatti bene, ti posso assicurare. Questa è una produzione Netflix, tra l'altro. E quindi, insomma, sono di alta qualità. Va bene, Marco, a domani. Buona giornata. Buonanotte. Ciao, ciao. E io, ciao, buonanotte, alle prossime, ciao ciao. Marco, come sto scendo? 1, 3, 4, 5, 6, dammi il controllo. Ciao Antonio, mi hai fatto sordo. Allora, la radio sarebbe buona, ma sento una specie di turbina di fondo, una ventola. Sì, ma vabbè, distante, comunque sì, aspetta, metto uno. Va bene così? Più umana, ecco, molto più umana, molto più umana. Ok, va bene, allora già è a posto là. C'è la turbina del WFF, c'è. Non c'è nessuno. Ma sono spento. C'è la turbina solo dell'alimentatore, quello che è distante. Sì, si notava, era molto amplificata prima, infatti mi hai fatto sordo. C'avevo il volume regolato per Gianfranco. Noi stavamo chiudendo, vista l'ora, adesso comincia a accendere la TV. Spero che mi venga il sonno prima oggi, che domani è giornata piena. Ah, se la metti sui bip, Antonio, mia, va, ti mangi il cervello anch'io. C'è un bip dell'apparecchio, dell'apparato, più un bip del microfono, della saletta. Che poi il bip dell'apparato è breve, molto breve. Con Superstar rende meglio l'idea. Invece i due toni iniziali, i primi due toni sono del microfono. Beh, me ne sono accorto. Ciao Fra, saluto anche a te, ben sentito. Sì, si mangia così, infatti. Vabbè. Tutto più sono sceso giù a Giovanna, ho preso la saletta perché un altro microfono usciva dalla cannata e ci va tutto incasinato, almeno questo esce bene. Adesso voglio attivare il sistema, cambio il spinotto, così è a posto. Sì, era fortissima l'alternata oggi, era una cosa terribile, che non si capiva praticamente la radio, quasi non si capiva, dai. E infatti me l'hai detto, infatti sono sceso giù, ho preso il microfono, ho saltato un pochettino con lui, poi sono salito a casa, ho ritirato alcuni apparati che mi ha regalato Giovanna, due portatili marini e un apparato, non so se sia Bui, Ubu, cinese, la verità, mi ha regalato tutti e due. Addirittura portateli marini. E cosa c'era la barca, Giovanna? O erano delle... tipo del marito? Dell'ex marito ero. Sono della Midland, sono, Colore, come sono? Bianchi? No, nero. Aspetta, ti dico il modello, così lo sai subito. Due minuti, lasciami il tempo lì. Così lo dico subito. Fai pure. Io mi ricordo, vabbè, anni fa li facevano bianchi soprattutto, poi marche tipo americane o inglesi, Ray Jefferson, roba del genere, erano più grandi, più... adesso li fanno neri, anche molti apparecchi nautici, chiamiamoli veicolari nautici, li stanno facendo neri. Proprio in barca mi piacerebbe bianco, non so perché, così ricorda la vetroresina, il colore chiaro. Allora, c'è scritto Pacific WFF Marino della Midland ed è nero. C'ha il menu che è celeste, il pulsante, poi c'è il canale 16 che è rosso, poi c'è sali e scendi che è celeste e lo scanner addirittura. Bellino la verità, non è brutto. Ah, ecco qual è. Sì, praticamente ha lo stesso identico chassis, la forma identica sputata del Midland G9, G9 Plus esattamente, perché poi c'è il G9 Pro che è diverso, sì, tasti azzurri, poi il tastino rosso, sì, 16 canali, sì, proprio il G9 Plus, stessa scocca, come vuoi chiamare, io chiamo chassis, scocca, buccia, come vuoi chiamare? Sì, non è 16 canali, 69, arrivo a venire 69 canali, sì, quando ho accesso, 68. Vado a scaricare, c'è ancora, figurati tu, da quando è caricato, comunque è bellino, la verità, poi 68 canali, 69, quello che è. Sì, scusa Antonio, è che sono fuso a quest'ora, siccome ho visto l'immagine con il display che c'era raffigurato il 16, mi è venuto da dire 16 canali, scemo io, i canali nautici sono di più, dai. Il 16 è il canale di emergenza, dovrebbe essere, no, 156-800, non mi ricordo più niente, sono esaurito. Sì, sono d'accordo, poi c'ho l'apparato senza bombase, c'ho quello piccolino cinese, non so se non l'ho ancora acceso la verità, devo accenderlo, se fa VU. È piccolino, non è cinese, ma è piccolino, senza le base. E quindi, come ti posso dire, 60 cm, neanche per 50, una cosa del genere. La metà è, quanto posso dire, la metà è come si chiama, fa cuffia a cazzo, la macchina mi ha dato tu, mi ha regalato tu, figurati tu, la metà qua, immaginati tu. Di lunghezza e di larghezza. Eia, c'è anche bianco, Credevo che non ci fosse, invece c'è anche bianco. Certo che bianco con quella forma, oddio, forse è meglio nero. Io dicevo bianco quei portatili nautici un po' più grandi, quelli anni 80, tipo mattoncini, quelli erano belli. Certo, adesso è tutto componenti piccoli, SMD, quindi sono piccoli. Oddio, bianco. Così era. Non mi ispira molto. Va bene, Antonio. Fuso sono. Figurati. E siamo a posto già. Uiaia. Anche la Brondi faceva un apparecchio nautico. Polmar. Tutti in parte. Polmar era il Polmar. C'era il Polmar che lo faceva. Anche la Brondi l'ha fatto modello. Però è uscito subito di catalogo. E sembrano dei PMR, praticamente hanno tutta la stessa forma. Però vabbè, fatti per funzionare in VHF marina. Ah sì, è vero, io ho visto l'altro giorno, ma il catalogo vecchio però, come stai dicendo tu? Sì, tanti anni, l'avevo visto sugli scaffali di Euronix, quando ancora c'era Euronix, lì all'inizio di Pradaniella, vicino alla... come si dice? Vicino alla... porca miseria... già hai capito dove era Euronix, dai. Ah, per la vietta, già ho capito dov'è. Sì, non lontano dalla... cosa c'è lì? La coapla, cosa c'è? Non mi ricordo. La coapla, sì, è vero. Io non mi ricordo i nomi delle vie lì. Ci hanno dei numeri, no, preda niente. Non mi ricordo, comunque sì. L'avevo visto lì, vediamo, Brondi VHF Nautica. Adesso lo scrivo, voglio vedere che aspetto aveva. Controlla un po'. Io sono qua, quindi dico la marca di quell'apparato cinese che non so se è V, se è UB, la verità non lo so, adesso devo cercare perché l'ho appoggiato in un posto ma non mi ricordo dove cazzo l'ho appoggiato, con tutte le cose che ciocca, qui in camera, non si capisce da panculo. Dice, sì, Brondi, VHF Marine, forse il nome è quello, modello Marine, Marine, c'è capito, scritto Marine. E questo c'è un minimo di tastiera anche. Sì, c'è tassi da tutto, da 1 a 0, da 1 a 9, vabbè, già capito. Tasto SOS, non mi ricordavo che avesse la tastiera numerica anche. Allora, questa foto che ho io è, si chiama, aspetta, te lo dico subito, l'XN www.888-10W. Senti che, ecco qua, sì, Polmar cosa faceva? Vabbè, certo, quelli lì, c'è il canale memorizzato lì, non è roba, vabbè, banda nautica, no? Off limits, ufficialmente. Vabbè, dialogo io, ma io c'ho, vabbè, c'ho i portatili normali, poi c'ho quelli, già lo sai, vabbè, il PMR ce li ho ancora, grazie a Dio. Questo mi ha regalato questi qua mia sorella, quindi cazzo, questo siamo giocato questo portatile, non so, so se sia VU, se sia solamente VU cinese, non so ma che cosa c'ha, figurati tu. Allora, Polmar Navi, sì, si pronuncia Navy, Polmar Navi 015F. Poi ne facevano anche un modello più piccolo ancora, un po' più zonco d'aspetto, il Polmar Navi 12HP. Boh, dipende dai gusti. Sì, l'altro è bruttarello forte, è tozzo, mi corto corto, sembra tagliato. E dicevo, il modello non si legge di quell'apparecchio che non sai cos'è, che banda ha. Ah, di quello cinese? No, aspetti, te lo leggo, non è Polmar, no. C'è scritto, allora, le LEIXEN www.888-10W. Ah, il Leixen, sì, il Leixen 898888, quello lì, sì. Quello un altro, anzi è stato forse uno dei primi, che poi è un cacchio di portatile camuffato da veicolare, cioè dentro c'è la stessa porcheria, non è altro che un portatile con i finali un po' più potenti, però quello ha dato vari problemi a tante persone che l'hanno provato, il Leixen, proprio fatto ai minimi termini, terra a terra. Sono già fatti meglio i QYT, oppure quello, come si chiama, il Baoge 218, però siamo sempre lì, dentro poi, alla fine è come se fosse un portatile, sempre con i finali potenti, quindi prende gli stessi colpi che prendono i Baobao portatili, e quindi è inutile, cioè c'hai watt per farti sentire, ma con antenne per formarti non senti. O comunque senti solo quelli fortissimi, e quindi non hanno senso nemmeno di esistere quegli apparecchi lì. Eia. Antone, se fossi entrato un po' prima, io devo staccare, sono veramente fuso, dalle 6 che sono, e basta questi messaggi, chi è? Tu sei? No, grazie a Dio no, il telefono ce l'ho dall'altra parte, non mi sono ascoltato il telefono io. Ma quelli sono quelli www.888 è un V, oppure fa V e U, non ho capito niente, la verità, perché non lo conosco. Fa tutti e due o fa solamente V? Buonasera. Buonasera, chi è entrato? Mi pare Tonino. Però non sono sicuro che c'è una radio che c'ha l'altoparlante l'onfio. Allora, se è quello che penso io, fa V e U. Antone, ma è quello veicolare con microfonino, è un veicolare miniatura, molto miniaturizzato. V e U. Sì, ho capito. Adesso lo attacco, vediamo se è vero. Buonasera. Sasso di Vecchio. Mi hai ascoltato dopo tanto. Ciao Tamburi, buonasera. Ciao Marco e ciao Alessi. Ah, il profeta, mi hanno scambiato per Tonino, però non so se sia solo da me, c'hai un po' di incertezza sulla modulazione, come un falso contatto mi, provo a dargli una scucciolata o lo scavo allo spinotto al mic stesso. Come adesso? Buona, credo che stiamo usando lo stesso identico mic, M95. Io su apparecchio Intec e tu su apparecchio migliore, molto migliore. Caparoggero, sì, magari è il PTT che, visto che lo sto usando poco, quindi sicuramente magari qualche scorreggio a parte, dai. Non tocchiamo quel tasto già, che io ai giorni che sono a faine con cipolle, insalata di cavolfiori, ceci, fagioli, di tutto. È una cosa veramente a rischio scintilla, è qua. ehi, dai, già va bene. Da qualche parte l'aria deve pur uscire, quindi. ogni tanto da davanti, ogni tanto da dietro. E niente, dai, ho acceso adesso perché mi stavo annoiando e ho trovato a voi, dai. Avanti a lei. Ok. Cazzo, c'è ragione Marco. EU. Cioè le frequenze memorizzate. È vero, EU, bello, cazzo, veramente bello. Ehi, un po' delicati. Allora, c'erano due versioni addirittura, Antonè. La prima aveva tipo 8-10 watt, però potrei sbagliarmi. Una dove poteva avere forse fino a 15-20 watt, ma era per un mercato, non mi sembrava roba che arrivava qua, boh, però potrei sbagliare. D'altronde, come ho detto prima, sono fuso e ho già, purtroppo, vabbè, anche Antonello gli ho detto, si è entrato in ritardo, no? Io stavo praticamente per chiudere. E Antone, sì, quello è veramente risicato, è come apparecchietto, pure troppo. Poi una certa volta la modulazione non era buona, dovevi migliorare il foro o cambiare la capsula. Comunque, visto che è gratis, tu usalo, se funziona. Beh, sì. Già esce già. Prova a parlare sul canale solito. Il ricevitore è acceso, vediamo un po'. E sì, non trovo il canale, in non appone. Niente. No, non lo so cosa c'è memorizzato qua, perché adesso non sono nel canale normale. Hai capito? Sono una frequenza che dove metti fuoco alle piante. Dove metti fuoco alle piante, boh, vabbè, e sarà qualche servizio da ascoltare, va bene, dai, già ne riprendi, io, dai, così vi saluto e vado, e già in TV niente ti sei guardato, c'erano un paio di film discreti, non dico eccezionali, ma... No, negativo, no, ma... stavo seguendo altre cose al computer, leggendo un po' di cose. No, niente, ho acceso così, sai, per vedere se c'era qualcuno, ho trovato a voi due. Comunque, non ho problemi. non ho voglia di trattenermi. E niente, sono entrato giusto per salutarvi, dai. Già. Vediamo se Pomponio può fare la prova su. Parla. Antone, c'hai un bip fenomenale, la radio è uno, a malapena ascoltabile, c'è uno, ecco, sì, adesso c'è, non è eccezionale come modulazione, è tutta TTC, tutta non limpida, però funziona. Cazzo, solo con la verticale, mini, non so con la direttiva, solo con la X300, sta funzionando bene adesso. Sì, sì, ma non è un problema di segnale, è un problema di modulazione. Non è eccezionale, tutto lì. Di timbri, cammi, di modulazione, tutto lì. Ho capito, vabbè, comunque funziona bene questo, là. Perfetto, c'ha tutti i canali PMR, già. Sono a posto, sono. Ah, adesso sì che sono un signore, cazzo. Ehi, tu c'hai molto di meglio. Molto di meglio, altro che l'Eixen. Passa via. Poco fa in una frequenza della forestale, quando ho detto la frequenza delle piante, c'era la frequenza della forestale memorizzata. Poi ho fatto la scansione dei canali, no? E ci sono tutti i canali PMR, ci sono. A un certo punto siamo a posto. Adesso rilancio Gianni, volevo dire, ma tuo cognato ci lavorava in quell'ambito là? Sì, a forestale sì, c'erano le frequenze dei balancini, cosa del genere, penso che siamo memorizzate, adesso non lo so, devo controllare, l'ho acceso adesso per la verità, mi ha regalato mia sorella l'apparecchio, c'è proprio per via, mi ha detto, ti regalo, mi ha dato quei due portatili della Midland e questo qua. Ai Baracelli sono arrivate radio belle anche, almeno come portatili, prima avevano quei portatili con quegli antenini tutti rotti, sbucciati, facevano schifo a vederci, adesso io ho visto certe radio Motorola che erano un bijou, non so nemmeno se siano in chiaro o in digitale, comunque belle radio. D'altronde la pubblica amministrazione già ce l'ha i soldi, quando vuole ce l'ha, capito? Ho già, adesso ho sentito alcune città, no, siamo in situazioni di crisi, no? Che ne so, prima della crisi, fino a ieri, la polizia piangeva, i poliziotti piangevano che a Giumè dovevano mettere la benzina di tasca loro, a loro dire, adesso, proprio con una situazione di crisi, no, se non stanno, parchi macchine favolose, polizia, carabinieri, rinnovati parchi macchine, non so in quale città, furgoncini, blindati, di tutto, si stanno preparando, mia. Già hai capito? Mamma mia, qua io ogni mattina mi sveglio, cazzo, sono convinto di essere sempre, cazzo, ancora in un brutto sogno, invece purtroppo, mamma mia, per carità, cazzo, oh yeah. Ma cosa c'è? Il 95, perché sembra che stai maneggiando un Kinder Sorpresa, sento rumoracci. Sì, guarda, devo stare immobile, ecco, così non dovrebbe, però siccome sto sempre dimanando mio, no, sono sempre mio, è tutto plasticoso poi, mamma mia, è una cosa, è un rumore unico, eia, sì, batteria scarica, il microfono è al massimo, ma la batteria è abbastanza scarica, lo voglio usare finché proprio non esce più, dai, poi la carico, è ricaricabile. No vabbè, io il mio, aspetta che qua il mio a metà, no vabbè, per curiosità, giusto per, sentivo questo scrocchiare in sottofondo, ma che radio stai usando? E poi facciamo entrare Alessio. Allora, sto usando un Intec M150 Plus, uno dei pochi baracchini veicolari senza smitter, con altoparlante frontale, se vuoi te lo faccio vedere, è abbastanza brutto, però funziona, è persino omologato, ti rendi conto? Ma anche questa roba è entrata da poco dentro il tuo parco radio? No, già, c'è un limite a tutto, anche al mio portafogli, no, questa roba che ho da vari anni, non tantissimi, è sempre, presumo, 2015-2016 dintorni, dai. E solo la foto che avevo fatto oggi per qualcuno, per Bombo, adesso lo faccio vedere. Che bello, non ha smitter, non deve dare controlli. Quando chiede, come è il segnale? Non ha smitter, è perfetto. Andava, dai, magari se c'è la foto mandarmela su o su WhatsApp o su Telegram. Andavi, dai. Oh, yeah. Avanti a lei. E allora, bubu. Se non avessi seguito tutto, se non avessi mandato veramente a Sassari. Cazzo, esco tutti di testa, cazzo, che picchia la moglie, che picchia i primo vicino che trova, cazzo. Arriveremo a quella torna. E inviato. Già, io Telegram l'avevo tolto e non ce l'aveva nessuno di quelli conosciuti. Ma parlo anche al di fuori della 27, non ce l'aveva nessuno di quelli conosciuti. E allora, visto che bene o male qua si usa WhatsApp, anche in famiglia, familiari, conoscenti c'hanno WhatsApp, ho tenuto WhatsApp. Ci sarebbe Signal come valido, c'è tutto un sistema particolare, cifrature, autodistruzione dei messaggi, roba tipo James Bond. No, vabbè, sono un po' che lo uso Telegram, quindi molto più leggero, molto più affidabile WhatsApp, a parte che non fa parte, in quanto roba russa non fa parte della solita famiglia e i soliti noti, dai. Comunque ho un po' di contatti lì, quindi lo tengo per quello. E niente, insomma, adesso mi è venuto in mente, visto che qualche messaggio ce lo siamo mandati anche lì, quindi non... Comunque dai, o uno o l'altro, alla fine è quello il discorso. E poi per il resto, ma... ce ne sarebbe da dire, dai. Però, come sta dicendo Alessio, non è buccia di gioca, dai. Oggi stavo commentando che ha festeggiato Halloween, no? Ha detto, perché non festeggiate anche il 4 luglio? Dobbiamo sempre fare il filo agli americani e alle loro feste, boh? Sì, vabbè, la storia della... le origini sono celtiche, credo, boh, comunque, poi arrivate lì, metà 800, adesso non mi ricordo quando, insomma, sono state chiaramente, come si dice, trasformate ad uso e consumo dello zio Sam, dai, e quindi Bacari, dai, vabbè, io infatti ho fatto un post scrivendo, quest'anno Halloween ha più senso perché... proprio perché ci sono molte zucche vuote in giro. E l'atmosfera da incubo anche un po', no? Mamma mia, che periodo. Anche mamma l'ha detto, dice, mai in vita mia una situazione del genere, con domiciliari, non... capito, roba del genere. Mai, né con le influenze brutte, che lei aveva passato là, quella brutta anni 50, cosa poteva essere? L'asiatica, infatti lì è immune a moltissime influenze, lì non ha mai preso influenze in tanti anni, è come se fosse il ceppo originario l'asiatica, è come se si fosse immunizzata, poi anche la SARS, altre, la aviaria e la SARS non hanno fatto queste cose qua, questi effetti qua, boh. Poi come dicevo io, può anche uno non crederci, però insomma non credo che ci siano tutti in mezzo, tipo dal primo dei più potenti fino all'ultimo infermiere, sarebbe una cosa quasi inconcepibile da pensare, dai. Però tante segni premonitori e tutto torna, ma se tutto va bene siamo rovinati. Riprendi i pomponi. Quello che è vero, se siamo come prima, siamo davvero davvero me. Oh, cosa ne dai? Poi io sto temendo perché mamma vuol farsi il vaccino anti-influenzale, no? E dico, vabbè, passi, però... Sai come succede? No, il vaccino praticamente fa reagire il corpo a quello che gli viene inoculato, no? Quindi mentre il sistema immunitario è occupato a combattere o a reagire a quella robaccia che ti iniettano, se sopravviene un'infezione secondaria, in questo caso tipo Covid, no? Coronavirus, mamma che tocchiamo ferro, non vorrei che poi appunto quello che arriva dopo riesca a sopraffare l'organismo. Sempre prendo spunto quella storia delle vaccinazioni selvagge, zona Bergamo-Brescia di cui parla anche il Bisanti. Vaccinazioni selvagge, soprattutto anche di anziani, sia influenzali sia cosa era successo, roba tipo meningiante, meningococco. E lì, caso strano, è stata un'ecatombe di presunto Covid, presunto, già, presunto. Già lo sai, riprendi Gianni. Marco, hanno dopo svariati mesi di bombardamento mediatico, cazzo, la gente ha il cervello completamente fuso, cazzo. Io a casa ho i miei genitori che insomma sono a una certa età e con le loro cose, quindi però non lo so, sono molto molto molto, per usare il termine morbido, molto molto critico. Quindi mi auguro che tua mamma ci ripensi prima di fare un'operazione del genere, perché secondo me piuttosto che, come si dice, non mi viene il termine, piuttosto che cercare di non avere i problemi in futuro, magari è possibile che, per carità, questa è la mia opinione, sono molto molto critico per non dire altro, cioè questa è chi ha pianificato questa operazione è una menti diabolicamente geniali, perché non è bastato né l'AIDS né altre cose assolutamente molto più virali e più, come si dice, e più potenti da un certo punto di vista. È stato geniale il fatto di basare tutto su qualcosa che ha a che fare con l'influenza comune, e chi l'ha fatto è un genio, perché poi insomma sono cazzo mesi, no? Figurati cazzo 8-9, cioè ogni giorno H24 cazzo, la gente ha il cervello bollito, quindi capisco insomma la gente comune che non si fa domande, cazzo, che in preda al terrore, cazzo, instillato da questi qua. Però c'è un problema di fondo, cazzo, che c'è qualcosa sotto di molto molto molto più grosso, capito? Chiaramente mascherato da questa emergenza, insomma, che poi se ti guardi le statistiche, i numeri degli scorsi anni, senza andare molto lontano, insomma, sono numeri da capogiro. Però sai, i mass media e quelli più deboli sono i primi a essere colpiti dal punto di vista del pensiero. E cazzo, devo dire che i due signori hanno fatto un bel lavoro. Più che altro, buonasera. Una mente perversa, eh? Tino, tu sei. Ciao, buonasera. Eia, sì, è una cosa. Questo martellamento mediatico è un vero e proprio lavaggio del cervello. Anche mamma dice esasperata. Quante volte la senti alla TV la parola Covid? Covid. Ti assudroneggia, si può dire? Sì, buonasera comunque, ciao Gianni, ciao Marco, credo ci sia anche Antonello se non sbaglio, ma sono un po' in ascolto. Ho deciso di intervenire in quanto ho spento tutto il PC e trasmetto un attimino la radio e poi a Nanna. Vai Gianni. Ciao Tino, buonasera, ben ascoltato. E anch'io sono entrato al volo poco fa. Ho beccato Marcolino che stava per fare chiusura e poi invece l'ho preso per para come ti dice, para vrachina. No, vabbè, niente, io stavo solo raccontando quello che penso, insomma, visto che sono ormai siamo un po' di mesi, un po' di campane si sentono, anche le più assurde, però come dico io, a questo mondo tutto è possibile, quindi poi sta ognuno di noi, come si dice, elaborarne i contenuti, però guarda, io ho lavorato in televisione, anche se è una televisione locale, però ti posso assicurare che i messaggi, la tecnica, il linguaggio, le immagini, insomma, io, visto che ho avuto la possibilità di farlo, un certo tipo di linguaggio lo capisco e quindi a me mi scivola addosso. Per la gente normale, cazzo, chiaramente gli arriva tutto. E lì ci sono tecniche molto, molto particolari, cioè non stiamo parlando di sprovveduti, capisci? Cioè, termini da usare, immagini da usare, un linguaggio particolare da usare, insomma. No, non è frutto di un caso, ecco. Comunque, questa è la mia visione. Avanti a chi tocca. Abbiamo usato un po' di tutto, ingegneria genetica per migliorare, per rafforzare quello che poteva essere rafforzato, ingegneria sociale e tante altre cose. Sì, ma mi ha fatto ridere questa cosa comunque, che fino a ieri, non dico a Sassari, ma fino a ieri piangevano che non avevano benzina per le volanti, in certe città hanno fatto un parco macchine, non solo ma parco mezzi, fenomenale, roba in grande stile, ma... Poi volevo chiedere a Gianni, se conosceva questa cosiddetta polizia europea che vorrebbero istituire, o se hanno già istituito, questa Eurogendfor, che roba è? Roba, ho sentito parlare di ampia discrezionalità, cioè di, come dire, di carta bianca, una cosa un po' bruttina ho sentito. La centrale operativa credo che sia a Vicenza. Sì, vabbè, è praticamente una, diciamo che è una sorta di corpo elite europeo, assolutamente protetto e come si dice, e non rispondente a tutta una serie di trattati, insomma, con le loro immunità che si scrivono, cioè se la suonano, se la cantano e se la ballano, capito? Cioè, comunque la base operativa è a Vicenza, adesso non mi ricordo la cittadina, comunque adesso mi sfugge, no, comunque è una cosa assolutamente ufficiale, adesso non mi ricordo se fa parte di Maastricht oppure del trattato di Versailles, non mi ricordo, comunque adesso mi sfugge, ho un voto in memoria. Niente, facciamo entrare a Tino, dai. Vabbè, dai. No, tornando al discorso di poc'anzi della televisione, dell'informazione, anche io praticamente ero un po' scettico, non scettico, dai, sempre con, come si può dire, con i piedi di piombo, al credere a tutto questo baladan. Poi invece mi sono ricreduto perché ho visto una persona, un amico di così, d'infanzia, chiamiamolo così, dai, che giocava a pallone, che è stato, insomma, anche lui ha avuto il Covid e ha raccontato la sua versione e quindi mi sono ricreduto, capito? Però non ero tanto convinto, sembrava anche una cosa un po' manipolata, un po' così come studiata a tavolino, ecco Gianni, volevo arrivare a quello, ma come hai detto tu, una mente perversa che ha studiato un po' il tutto per poter fare, come hai detto tu, anche che c'è una cosa, insomma, un bel in più, una cosa in più di quello che si vede oggi, ecco. Beia. Chiaramente una cosa del genere, cioè poi, sai, solitamente uno si guarda 1, 2, 3, 4 telegiornali e praticamente la voce è univoca, ok? Praticamente il clima è quello, non ci sono soluzioni, sono solamente problemi, ok? Adesso anche a livello di termini di linguaggio, proprio di terminologie, la comunicazione, il sistema sta usando molti termini che vengono usati in ambito militare, ok? Battaglia, è nemico, coprifuoco, è guerra, questo e quell'altro, cioè il linguaggio, cazzo, nella comunicazione è molto importante, questa gente lo sa, ok? Io ho parlato con diversi amici, anche qua in casa, insomma, i miei genitori sono anziani, e quindi, sai, giustamente sono molto più labili da quel punto di vista. Il discorso è che c'è una realtà che esiste, che è quella di un virus influenzale, che sia stato corrotto in laboratorio, che sia stato manomesso, non c'è dato a sapere. Comunque, come ogni anno si presenta un'influenza, ok? Che l'influenza nel corso degli anni ha fatto sempre, insomma, ha fatto sempre i numeri. La cosa geniale, secondo me, perché dietro si nasconde altro, e ci sono riviste e pubblicazioni internazionali che parlano di un grande reset a livello economico, proprio perché si parlano di cifre, di tanti zeri che non riescono a stare dentro una stanza, cioè tra multinazionali, corporation, governi, insomma, e qua i loro signori vogliono praticamente, insomma, resettare tutto e convertire tutto, il tutto, anche tra virgolette gli esseri umani, in digitale, capisci? Adesso ci sarebbe per mesi a parlare di questa cosa qua. Comunque la cosa, molte cose sembrano scollegate, però fondamentalmente è una grande tecnica che vecchia come il mondo, che se vuoi controllare le persone agisci sulla paura, no? E quindi, cioè, non si parla mai di sistema immunitario, insomma, di come curare la propria salute, dell'alimentazione, di fare movimento, di prendere un po' di sole, insomma, di farsi una bella camminata, cioè, capito? Questi consigli non si vedono, si sparano solo cose così a raffica, cioè, perché poi alla fine la prima arma, tornando al discorso del lessico, no? È il nostro sistema immunitario. Se stiamo bene, se ci teniamo in salute, chiaramente abbiamo una marcia in più, capisci? Poi, per carità, persone anziane, chiaramente, che hanno un po' di anni alle loro spalle, che hanno i loro acciacchi, risultano un po' più deboli, e anche lì l'informazione è ingannevole, capisci? Adesso si parla di contagiati, si parla di asintomatici positivi, cioè, però non si dà un'informazione a metà, cioè uno può essere positivo, può essere contagiato, ma se non presenta problemi come una normale influenza, insomma, non, vedete, è il buon senso, cioè se uno sta male, se ne sta in casa, si zappa e cerca di stare tranquillo. Adesso questa cosa l'hanno ulteriormente amplificata, ma in senso negativo, capito? Quindi la gente adesso, cazzo, si fa mettere i tamponi, cazzo, in ogni luogo, capisci? Quindi io non sto negando il fatto che esista magari un virus influenzale un po' più pesante rispetto al solito, ma da qui a veramente spacciarlo per cazzo qualcosa di estremamente mortale ce ne vuole, capisci? Forse mi sono trattenuto un po' troppo, avanti. No, vado avanti, Marco, rilancio il mic e poi riprendo io, vai. Ehi Attino, anch'io comincio a perdere coscienza, sai perché? Allora eravamo con Gianfranco fino a mezz'ora, forse anche tre quarti d'ora fa, ed ero già cotto dalla stanchezza. Ho detto chiudiamo, è entrato Pomponio, una parola tira l'altra, modelli radio da guardare, insomma, adesso chiudo. Poi è entrato Gianni, una parola tira l'altra, però la verità è che praticamente non ne voglio seguire trama in TV, né telefilm, né film. Alla fine ti distrai di più scambiando due parole. Certe volte le trame vogliono seguite, insomma io dopo una certa ora il cervello chiude bottega, chiuso per ferie. Spero di dormire meglio stanotte perché quest'ultima notte, come sempre, ho fatto l'alba e poi sono crollato la mattina. Boh, io non capisco questo meccanismo perverso che ha il corpo, cioè mi viene la biocca alle 8 di sera, magari mi addormento anche col primo film, però poi dopo una certa ora gli occhi tipo fari da stadio, eppure prendo anche roba pesantucciami per dormire, niente, non mi fa più niente, che ti devo dire? Vabbè, poi le preoccupazioni, i genitori anziani, vabbè, le preoccupazioni un po' di tutti, dai. Pomponio, tu eri pigiando il PTT, allora funziona questo listen? Sì, funziona, perché è lanciato nella verticale, in pratica, nella diamante, capito? Quindi funziona, già esce, poi ho fatto la prova con una apparatura accanto all'altro, vediamo, già esce. Dell'altro apparato, la verità, esce molto bene. Bisogna che non ha quel buco, grazie, quel cavo a capsula. Gli allargagli il buco. Gianni, non vedo i segni di spunta blu, ti ho mandato l'intech che sto usando adesso. Tino, dai, anch'io non tarderò ad andare via, perché, dai. Buona serata, buon tutto, sentiamo quando capita. Mi volevo disintossicare un po' dal baracchino in questi giorni, sono entrato due giorni che non entravo, però adesso la malattia è tornata. Vabbè. Gianni, riprendi, l'hai visto? No, negativo, c'ho il telefono lontano, facciamo entrare Attino, avanti. Non c'è problema. Sì Marco, ti ho sentito, stavo ascoltando anche poc'anzi, però ti ripeto, era al PC e avevo un orecchio a voi e gli occhi al PC, quindi capisco sei stanco, sei provato, sei preoccupato, sei tutte cose. Però c'è da dire una cosa Marco, che il nostro corpo, perlomeno a me succede così, io ho un orologio nel corpo, per andare a dormire, guarda, posso coricarmi anche 2-3 del mattino, però alle 6 sono con gli occhi aperti. Poi magari sono stanco, se riesco a riaddormentare mi riaddormento, però alle 6 puntualmente sono in piedi, quindi anche oggi è capitato così, mi sono svegliato alle 5:30, alle 7:15, tra una cosa e l'altra, ho detto ma cosa devo fare, oggi è domenica, vabbè, mi ritraio, mi sono entrato in bagno, mi ho dato una sciacquata così e poi di nuovo a nanna e mi sono alzato alle 9. Non so, l'organismo è un'abitudine che hai, adesso magari crolli come hai detto al primo film e poi da una mattina puntualmente, presto ti svegli. Va bene, dai, io sono entrato a salutarvi lo stesso, stavo, come ho già detto, ho chiuso il PC e stavo entrando, sono entrato a salutarvi perché mi sembrava brutto non darvi la buonanotte. Rilancio il mic a Gianni, ascolto il finale e poi vado via anch'io, dai, ciao. KK, eia, dai. Sì, vabbè, lì l'orologio biologico è più preciso della sveglia. basta abituarlo per 21 giorni, dopodiché la famosa regola dei 21. No, vabbè, è successo anche a me per questioni lavorative, insomma. Ma succede anche adesso, quindi... è tutto normale, è assolutamente naturale, quindi niente, dai, visto che ho il mic vi saluto anch'io, dai, ci sentiamo alle prossimine, e anch'io sto entrando poco, anche un po' svogliato, insomma, non solo a livello di radio ma anche per tutto il resto, comunque dai, ci aggiorniamo alle prossime, e niente, quindi rilancio Marco e poi via con la ruota. Sì, Gianni appena di nuovo sta facendo quella cosa lì, ogni tanto l'audio si abbassa lievemente a scatti, come dire, un istante prima è normale, un istante dopo si abbassa, così, piccoli micro falsi contatti. Ok, quindi di nuovo Tino, buonanotte, il mio orologio biologico non c'è, io sono tutto scombinato, per esempio se ho fame a luna alle 13 mangio alle 13, se ho fame parlo del pranzo, se ho fame alle 8 di sera pranzo alle 8 di sera, non abbiamo diciamo impegni fissi, scadenze fisse, per cui per dire, per fare la spesa posso andare la mattina presto, la mattina tardi, pomeriggio, la sera, la notte anche se fossero aperti, sono un po' tutto scombinato e quindi si ripercuote anche sulla, come si chiama già, quello veglia sonno, il ritmo circadiano, quello è. KK. Antonè. Allora sì, il microfono, la modulazione di quello non è eccellente, ma d'altronde è gratis, quindi non puoi dire nulla, capito Antonè? Sì, puoi provare a allargare il foro, però è questione anche forse di capsule, dei modulatori, fatto molto ma molto in economia, capito Antonè? Ehi, vabbè, lascio così com'è, se la prendo, tanto è gratis, se mi da fonte, lascio così com'è, non tocco niente, no? Lascio così, va a cuffia. Questo già esce l'apparato, quindi. I canali memorizzati in PMR ce li ho, quindi più così, contento di così mi vuoi. A un certo punto. L'antenna la cena me lo passerò in macchina, me lo passerò. E me lo porterò in macchina, tanto ci sta dentro come si chiama. Magari Giovanna. Andrà bene. Chi stava chiudendo sotto di Tino, buon codito, buon tutto, alle prossime si sta chiudendo eccetera eccetera. Vabbè, poi vabbè, adesso sto caricando quei due marini, vediamo la mattina come sono, se funzionano bene, se no non è un problema per quello. Via, custodia in similpelle per il portatile mattone, quello nero, Intec. Sì. L'ho provata, funzionava, cioè andava veramente bene, la verità. Quel mattone che stai dicendo tu, quello c'era a Torino, c'era. Hai capito? Me l'ha chiesto lui e gli ho dato a lui. Quel mattone con la custodia. Ehi, ho detto mattone perché non mi ricordo nemmeno più il modello, Antonè. Che la Intec ne ha fatti tanti, ne ho avuti anche abbastanza della Intec. Mi ricordo ancora l'Handicom 20LX, era uno dei primi con display a cristalli liquidi. Sembrava roba ultramoderna, ogni bucaria, Puch, Handicom 20LX. Ed era, credo, non dico il primo, no, non era il primo, ad avere quegli antennini in gomma, molto caricati, quindi roba praticamente usata poco, poi venduta o svenduta, non mi ricordo. dato CB, ma io manco più mi ricordo quali e quanti stavo dato il Connex 4000, l'FM500S, poi il Viking 2, non so se era per te o se era per un altro, non me ne ricordo. Cosa trovo del portatile, poi... Ah, mi ha dato il Viking 2, per esattezza, mi ha dato a me. Poi mi ha dato il Connex 4000, il portatile è quello che stai dicendo tu, che poi io ho dato a Tonino, che si fa Tonino per una cosa, che insomma, vabbè, quando ci vediamo te lo dico. L'FM500S ce l'ho qua, la verità, ce l'ho qua ancora. Mi è rimasto il Connex 4000 e l'FM500S. L'unica cosa che avevo dato e avevo regalato è la cosa, quella l'alimentatore, l'antenna BA27L era a Mario eccezionale. No, non Mario eccezionale, il Viking l'avevo dato a cosa? A Antonio di Usilo, Antonio la facoltà, adesso mi ricordo il cognome. La verità, a me gli avevo dato un'altra baracchina, avevo dato, l'avevo dato io, che però non l'ha mai usato, la verità, avevo dato quello lì, l'alimentatore e la BA27L, basta, che però non l'ha mai usato. Poi il Viking l'avevo dato a coso, Antonio Mancuni si chiama, quello di Usilo. Qualche giorno ti porto su, ti faccio vedere tutta quella roba antica che c'ha, perché lui è appassionato di queste di roba antica, capito? C'è addirittura quelle quella sala che ci metti i dischi dentro, come faceva ai tempi antichi, andavi nel bar, ci mettevi gli spiccioli, tac, prendevi il pulsantino per dire disco numero 10, tac, e andava il disco numero 10, capito? Quello che volevi tu, quello c'ha. E poi l'ha incasinato coso, un amico mio l'ha incasinato, è andato via di palazzo, invece ha fatto danno, ha fatto da lui, era bello quella cosa lì, ma veramente bella, era unico, e c'ha più di 40 anni c'ha quella gente lì, veramente bello era. Mi faceva ricordare Gris, capito? Entra al volo, dai, scusate ragazzi, dai, faccio corretti per me. Tino, vi siete sovramodulati poco fa, credo che magari stava salutando, non avete sentito niente, dai, quindi vi saluto e niente, ci aggiorniamo alla prossima, come si dice, buonanotte e alla prossima, dai, statemi bene. Ciao, alla prossima, ci sentiamo. Eia Gianni, dai, buona serata, buon tutto e ci sentiamo. Antonello, jukebox. No, ho scritto jukebox, mi pare, jukebox, dai. Sì, belli, quelli là, certo bisogna mantenerli bene, avere anche, cioè bisogna saperli mettere a posto, tenerli bene, ci vuole una pazienza maniacale, però ci sono tante belle cose, sì. Beh Antone, la spegniamo che così ci sentiamo con calma quando capita, però io ho troppo niente. Se non testo giorni che ascolto e boh, e certi giorni che sto anche troppo, preferirei fare più ascolto, però che mi stanco anche di voci, di tutto, boh, un periodo strano, anche per il fisico non è che sia molto in forma, vabbè, non è novità, ma in questo periodo particolarmente. Ok, dai, Antone, ci sentiamo, saluta Simona, saluta Giovanna, insomma, saluta tutti lì, in quella zona, noi ci sentiamo quando capita, ok? Ciao, buonanotte, e a Gianni di nuovo, ciao, ciao, ciao a tutti gli ascoltonianti. Ciao, ciao, buonanotte anche a te, con quel jukebox, sì, bravo. Già ti porto qualche giorno, vieni con me, 5 minuti verso, dopo le 4, 4 e mezzo, tanto non è lì, così lo vedi, vedi la roba antica che c'ha, ti metti le mani in testa, ti metti. D'accordo, ok, alla prossima, ciao, stammi bene, buonanotte, buon tutto. Sì, Antone, io non sapevo nemmeno che ci fosse un altro CB da Osilo. Io ho sempre sentito Francesco, sempre solo lui, in tanti anni. Proprio che tu conoscevi tutta la 27, dagli albori, insomma. Zio Maria, ogni tanto mi dici, ti ricordi cosa che mandò roba dalla I? E io, mai sentito. Lo so, ma Antonio Marco non è CB, comunque. Capito? È una persona che gli piacciono queste cose antiche, capito? Allora, ti ho regalato la Ringo, cioè te la ricordi, quello mi hai dato tu, e l'apparato che gli ha regalato. L'aiutatore l'ho regalato io. Ti ho pensato lì, dove c'è la villetta, già te lo faccio vedere uno di questi giorni che se ne voglia di uscire. Ti porto lì così lo vedi. La roba che c'ha. A me lo assaggi un po' di salsiccia, formaggio, di tutto c'ha. Ti fai una bella cena, ti fai, alle 5:30-6 di sera. Assaggiando, cazzo, pane, salsiccia, eccetera, eccetera. È sicuramente anche più sana di molte porcherie che mangio io, no? Salsiccia, formaggio, vino rosso, di quello genuino e non quello fatto col piccolo chimico. Mamma mia. Ok Antone, dai, rinnovo i saluti. Buonanotte e buon tutto. Ciao. Ciao, buonanotte, ciao. A domani.